Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Che le cozze fossero capaci di produrre una super colla era cosa nota, tuttavia nessuno finora era riuscito a chiarire esattamente come questa colla funzioni e soprattutto da cosa derivi la capacità delle cozze di fare presa sott'acqua. Oggi infatti la maggior parte degli adesivi più potenti che conosciamo è inutilizzabile in ambiente acquoso ed è questo il motivo dell'insolita ricerca condotta sulla cozza verde asiatica dall'Istituto di Nanotecnologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR Nanotech in collaborazione con l'Università della Calabria e la Nanyang Technological University di Singapore. Per parlarci di questa ricerca abbiamo in linea con noi Bruno Zappone, che è ricercatore del CNR Nanotech. Buonasera Zappone. Buonasera. Allora, senta, qual è il segreto di queste cozze? Come fanno a incollarsi così bene sott'acqua? Allora, il segreto sta nella particolare bava che riescono a secernere da un particolare peduncolo con cui tascano le superfici su cui vogliono attaccarsi. Questa bava è ricca di proteine e queste proteine contengono un gruppo molecolare funzionale particolare che si chiama DOPA, che ha delle proprietà adesive. Tuttavia, si sapeva già che questa DOPA avesse delle proprietà adesive. Quello che non era chiaro finora, che il nostro studio ha contribuito a chiarire, è che per esprimere queste proprietà adesive le proteine contenenti DOPA hanno bisogno di una sequenza orchestrata di secrezione che fa sì che la prima proteina che viene in contatto con la superficie la asciuga, cioè rimuove le molecole d'acqua e stabilisce dei contatti adesivi, dei legami adesivi. A valle di questa prima secrezione vengono prodotte altre due o tre, forse quattro proteine che hanno delle funzioni diverse. Ad esempio, la seconda proteina ha probabilmente la capacità di proteggere il gruppo molecolare adesivo DOPA dall'azione ossidativa dell'ambiente marino. La proteina che segue serve a stabilire una specie di primo strato, diciamo le fondamenta di un tessuto che poi viene costruito a monte e che termina una specie di filamento che costituisce quella barba, sì, la lanugine che si vede attaccata alle cozze. Alle cozze, che normalmente si toglie quando si puliscono sostanzialmente. Quindi insomma è qualcosa di più di una colla bicomponente, perché addirittura bisogna proprio mettere i vari componenti nella sequenza giusta, prima per asciugare la superficie, poi per una prima adesione, poi addirittura per proteggere questa colla dall'azione dell'ambiente, perché non solo fa presa, ma resiste anche molto a lungo. È così rispetto, sì, alle colle che abbiamo noi? Sì, esatto. Ovviamente le cozze producono più di un filamento e più di un punto adesivo nel corso della loro vita, li rigenerano con una certa periodicità, ma ogni punto ha una vita media molto più lunga di quanto riusciremo a fare oggi con i nostri adesivi sintetici. E quindi, dovendo ispirarci alle cozze per produrre dei nuovi adesivi, dovremmo immaginare delle colle con tre, quattro componenti con una sequenza di attivazione, sì, ben precisa, ben precisa. Senta, veniamo alle applicazioni. Perché è così importante mettere a punto delle colle che fanno presa in ambiente acquoso? Ah, guardi, questo è il motivo fondamentale per cui studiamo le cozze. Cioè, il motivo è che c'è un grande bisogno in tantissimi ambiti applicativi di un adesivo che funzioni sott'acqua, cioè tra superfici che sono già bagnate. La prima applicazione è quella, ad esempio, se immagina come vengono fatte attualmente le operazioni chirurgiche: si incide un tessuto, il tessuto rilascia verso l'incisione tutti i liquidi, certo, biologici, eventualmente, certo, sangue, e per cui le superfici che andranno poi reincollate o vengono riavvicinate, vengono fatti cucite, notoriamente si fanno dei punti di sutura. Esattamente. Mentre questo potrebbe essere un problema semplicemente estetico per piccole cicatrici, diventa invece un, certo, problema importante in, sì, in altre applicazioni. Pensi ad esempio al distacco della placenta, in cui è impossibile applicare delle suture. In, certo, quel caso sarebbe perfetto, il sogno proibito, diciamo, sì, nel nostro ambito di ricerca, è immaginarsi una colla che fa aderire la placenta all'utero, in questo caso, sì, in un ambiente acquoso, senza dover fare nessun tipo di sutura. Di sutura. E ovviamente pensiamo cosa vuol dire poter incollare due ossa anziché magari metterci bulloni, viti o cose di questo genere, soprattutto una rapidità, no, di ricostituzione della frattura. C'è anche il settore navale, so che ci state lavorando sopra naturalmente, ma volevo capire, tutte queste applicazioni sono lontanissime oppure ci sono già le condizioni per un trasferimento tecnologico? No, assolutamente, c'è un grande ottimismo nel nostro ambito di ricerca sul fatto che si riesca a mettere in produzione, o meglio, si riesca a sviluppare in tempi relativamente rapidi, sto parlando di meno di una decina d'anni, delle colle sintetiche ispirate alla bava delle cozze. Alcuni prototipi, cioè delle plastiche polimeriche prototipali che contengono lo stesso gruppo molecolare adesivo delle cozze, che ripeto si chiama DOPA, sono già state sintetizzate. Noi nel nostro laboratorio ne stiamo testando già un paio, ma il punto fondamentale, come diceva lei correttamente in precedenza, è che non basta semplicemente individuare qual è il gruppo molecolare adesivo, bisogna capire qual è la sequenza esatta, giusta, la miscela giusta perché questo gruppo molecolare esprima le sue capacità e le sue potenzialità adesive nel modo più forte, efficace e duraturo possibile. Va bene, grazie Bruno Zappone. Grazie a lei. Ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani.